bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele. Ha un filtro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria, legge il destino ma nelle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Mamma,